Per riprendere le nostre conversazioni letterarie, affrontiamo un aspetto estremamente interessante che riguarda proprio la presenza dell'autore, o meglio, la presenza del narratore. Chi è il narratore? Colui che racconta. In particolare, nel momento in cui apriamo un libro, tendenzialmente facciamo coincidere in maniera ideale il narratore con l'autore. Ma in realtà non è vero. L'autore reale lascia soltanto una traccia di sé nel testo e la coincidenza tra autore e narratore è una finzione e un'immagine che si fa il lettore, perché attribuisce ovviamente il racconto di quel testo al nome proprio che compare nella copertina del libro. In realtà è un autore implicito quello che esiste nel testo. Perché al di là del fatto che possa essere in maniera evidente un'opera dichiaratamente autobiografica, dove realmente l'autore reale e il narratore coincidono, nel campo letterario in realtà il narratore è una voce narrante. È colui che parla nel racconto, è colui che è incaricato di portare avanti la vicenda e in qualche modo di costruire la regia. Può raccontare in terza persona oppure in prima persona, può seguire un ordine cronologico dei fatti oppure alterarlo. Sono tutte le strategie che permettono appunto a un testo di essere una narrazione. Se il narratore appare come un narratore esterno, questo è un effetto che noi deriviamo fondamentalmente da un indizio grammaticale. Il fatto che il racconto si svolga in terza persona. Questa distanza crea l'effetto di un narratore che quasi non ha nessun ruolo nella vicenda, nel senso che è semplicemente un testimone, se vogliamo, di una storia che riguarda personaggi a lui estranei. In moltissime opere narrative, soprattutto moderne, il narratore in realtà utilizza la prima persona. E diventa una sorta di narratore interno, un personaggio, il protagonista della vicenda. È lì che la critica alle teorie grammaticali, grammaticali nel senso le teorie della grammatica narrativa, parlano infatti di io narrante, un narratore che dice io racconta la sua storia, che coincide quindi con quella del personaggio. In altre opere narrative il narratore in realtà si divide invece in due funzioni, cioè c'è un narratore principale e un narratore secondario. È come se affidasse una porzione del racconto a un altro narratore. Un personaggio del racconto principale prende la parola e a sua volta racconta una storia. È quello che viene definito il racconto nel racconto. Gli esempi di questa tecnica, l'ho già citati, sono le grandi narrazioni epiche del mondo classico, nell'Odissea. La voce narrante è esterna e un ampio gruppo delle avventure che riguardano Ulisse viene raccontato dall'eroe in prima persona. Nell'Eneide viene ripreso lo schema del racconto nel racconto quando, per esempio, Enea, alla corte di Didone, narra la caduta di Troia, a cui egli è scampato. Queste formule del racconto nel racconto hanno una variante nel cosiddetto racconto in cornice, di cui abbiamo l'esempio più eclatante e forse anche più conosciuto nel Decamerone di Boccaccio. Ci sono 100 novelle che sono narrate da questi giovani e queste giovani che si sarebbero rifugiate in una villa fuori Firenze per sfuggire alla peste. Alla voce narrante principale, quindi, spetta soltanto la costruzione della cornice dei racconti, i quali poi sono portati avanti, invece, sono affidati, possiamo dire, a narratori di secondo grado. Se affrontiamo il discorso del narratore, cioè di chi narra la storia all'interno di un testo, inevitabilmente abbiamo a che fare con un punto di vista o quello che possiamo definire la focalizzazione del racconto. La domanda che ci dobbiamo porre è da quale angolo di visuale siano quindi narrate le vicende. Se la storia viene vista attraverso gli occhi di un osservatore imparziale o di un personaggio che viene coinvolto nella storia stessa. La voce narrante ovviamente quindi ha degli indizi, delle manifestazioni di tipo grammaticale. All'interno di uno stesso racconto, romanzo, è possibile assistere a una variazione della focalizzazione. Normalmente si distinguono, si individuano tre tipi di focalizzazione: quella che viene chiamata focalizzazione zero, poi la focalizzazione interna e la focalizzazione esterna. La focalizzazione zero coincide con un punto di vista del narratore che è esterno alla vicenda, che vede, per così dire, da una prospettiva d'insieme, quindi dall'alto, ponendosi fuori dalla storia stessa. C'era una domanda che serviva nelle scuole di scrittura creativa a identificare la presenza della focalizzazione zero. La domanda è molto semplice: quanto sa il narratore rispetto ai personaggi? O meglio, sa di più o di meno? Oppure, sa quanto sanno i personaggi? Nei racconti in cui la focalizzazione è zero, il narratore sa più dei personaggi, anzi, in realtà sa tutto. Conosce anche i singoli pensieri, i sentimenti, le emozioni di questi personaggi ed esprime su queste sensazioni e su queste emozioni anche delle valutazioni, dei giudizi. È quello che veniva definito il narratore onnisciente, di cui abbiamo appunto un grandissimo esempio nella prosa manzoniana. È una caratteristica che, come ho già sottolineato, appartiene a buona parte della narrativa europea dell'Ottocento, proprio per questa sua convinzione intrinseca che il mondo là fuori sia una cosa in realtà spiegabile e comprensibile. La focalizzazione interna, ne abbiamo un esempio, sempre per citare i classici, proprio nella coscienza di Zeno di Italo Svevo. Il protagonista richiama continuamente, con questo suo io narrante molto forte, episodi cruciali della propria vita, perché deve guarire da una nevrosi che lo attanaglia. Non può quindi, ovviamente, se non esistere all'interno di un punto di vista personalissimo, di una soggettività estremamente forte e ricalcata, perché anche la storia in realtà non è altro che la ricerca continua della sua identità. In questo caso il narratore sa quanto sa il personaggio, cioè non c'è nessuna informazione in più che il narratore può dare rispetto a quanto il personaggio stesso racconta e svela di se stesso. Può accadere, soprattutto nella narrativa contemporanea, che questa presa di posizione così forte della focalizzazione interna non sia fissa, cioè non sia legata a un solo personaggio, ma che si alternino invece all'interno del racconto i punti di vista dei diversi personaggi, nel senso che la realtà viene raccontata ogni volta, un fatto, l'evento, dal punto di vista del personaggio che ne è il soggetto principale. Questa è una tecnica che viene molto utilizzata proprio perché è l'indizio più manifesto della impossibilità di avere una oggettività dei fatti. Il mondo può essere raccontato, percepito, spiegato forse soltanto dal punto di vista interno ogni volta dei personaggi messi in azione. Il terzo esempio di focalizzazione sul quale vorrei porre l'attenzione è quando la voce del narratore esterno si limita a registrare soltanto alcuni aspetti dell'ambiente in cui avvengono le vicende e della fisionomia dei personaggi, mentre tutto il resto viene affidato a quel continuo intervento delle parole dei personaggi attraverso i dialoghi. E quindi in questo caso la funzione, la focalizzazione esterna del narratore si limita ad essere un po' con la stessa funzionalità delle didascalie di un testo teatrale. Il lettore in questo caso deve ricostruire la vicenda, le storie, attraverso le parole dei personaggi. Il narratore non lo aiuta per niente, è come se sapesse meno dei personaggi. Questo permette ovviamente un effetto quasi di immediata entrata, no, dentro le scene narrative e fa crollare quasi la sensazione della finzione narrativa, proprio perché le parole attraverso un dialogo ottengono quell'effetto di voyeurismo di cui ho già parlato, che fa entrare immediatamente, in medias res, all'interno della situazione narrativa. Quindi in questo caso noi abbiamo dei testi che adottano questa focalizzazione esterna quasi didascalica che si limita alla costruzione di descrizioni più o meno che noi percepiamo oggettive, affidando fondamentalmente la narrazione, quindi il dramma, al dialogo. Tutte queste tecniche di cui l'autore dispone per costruire una narrazione rientrano in quello che dobbiamo identificare come stile. Infatti, perché poi di fronte a un libro il lettore fa coincidere la voce, diciamo la strategia narrativa con il nome proprio dell'autore? Perché se il lettore ha una certa consuetudine con testi scritti da quell'autore o da quell'autrice, in qualche modo ha acquisito, sa riconoscerne l'impronta. L'impronta che è visibile nel modo di organizzare il racconto, nel modo di presentare i personaggi, nel modo stesso di scegliere il punto di vista. Ma non si ferma qua la presenza dello stile e quindi di questa impronta. Addirittura arriva a coinvolgere i tratti più formali del testo, la sintassi, perché la sintassi, è il modo con cui, noi percepiamo il ritmo della prosa. Poi il lessico, che è l'indizio del cosiddetto registro linguistico, medio-alto, alto, basso, popolare, e tutti quegli aspetti retorici che più o meno presenti tendono a dare quindi una forza espressiva. L'uso di immagini, di comparazioni o di metafore, la contrapposizione tra concetti astratti e concetti concreti, gli effetti di ricorrenza. Uno diciamo delle cose più interessanti che caratterizzano tra l'altro la nostra letteratura contemporanea è questa tendenza a adottare un linguaggio mimetico. Un linguaggio mimetico significa un linguaggio che tende a riprodurre in qualche modo il parlato del mondo contemporaneo. L'esempio più, diciamo, più classico lo abbiamo proprio nell'opera di Giovanni Verga, dove il linguaggio mimetico viene utilizzato per riprodurre il parlato dialettale, in una profonda convinzione che la narrazione degli umili dovesse, per coerenza, avere anche nella scelta, quindi stilistica, sintassi, registro linguistico, eccetera, la presenza forte di quel mondo, quindi il dialetto. Quindi è come dire che, quello che noi consideriamo oggi quasi la trasfusione, un rapporto tra vasi comunicanti, tra la realtà sociale, quindi la realtà linguistica e il mondo letterario, è frutto proprio di una variante infinita che possiamo ricondurre dal modello di Verga, che farà scuola, fino a tutto l'ambito del neorealismo, cioè un movimento letterario che, tra la fine degli anni, 40 e l'inizio degli anni 50 si è posta infatti come obiettivo principale la rappresentazione della realtà e soprattutto quella più povera, quella fuori dai canoni tipici della rappresentazione letteraria. Citiamoli, sono Pavese, sono Fenoglio, per i quali tra l'altro questa definizione di neorealismo sta veramente stretta ed è molto discutibile, ma comunque conferiscono alla lingua letteraria una forte coloritura dialettale. E che può arrivare alla presenza stessa del dialetto all'interno del testo, come invece mantenersi in quella struttura di calco che fa sentire che la lingua che viene utilizzata non è propriamente la lingua nazionale o la lingua letteraria, ma è una lingua che deriva fortemente dal contesto geografico in cui sia l'autore e sia il testo sono costruiti. Altro esempio, diciamo, illustre ovviamente è Pierpaolo Pasolini, che ricorrerà addirittura al romanesco per ritrarre in maniera più immediata e più diretta la vita dei ragazzi di Borgata. Cosa significa questo? Cioè, che cosa significa il linguaggio mimetico che entra quindi all'interno delle narrazioni letterarie? È ovviamente un gesto di protesta rispetto a quella torre d'avorio in cui spesso e volentieri la letteratura si chiude isolandosi dal contesto sociale. Cioè, ogni qualvolta una narrazione, un autore, un movimento di narratori ripropone il linguaggio mimetico, la presunzione, se vogliamo, di voler far parlare un pezzo di realtà che fino allora nella letteratura e nei libri non era entrata. E questo noi, senza dover attribuire etichette a destra e a manca, ne abbiamo tantissimi esempi nei libri che leggiamo, cioè l'abbassamento del registro linguistico all'interno delle finzioni narrative risponde ancora a questa esigenza di rappresentare la realtà che c'è fuori, nella sua varietà infinita di etnie, di condizioni sociali e ovviamente con un occhio abbastanza più attento e più vigile rispetto a quelle realtà complesse che esprimono dei disagi sociali estremamente evidenti. La narrativa di Carlo Emilio Gadda rappresenta in questo un, come dire, l'esploit di un pasticcio linguistico fortissimo. Cosa fa Gadda? Crea uno stile tutto suo, uno stile composito, possiamo dire, in cui convivono nello stesso spazio sintattico, sia la lingua d'uso che la lingua letteraria, sia addirittura il lessico tecnico, sia l'inserto dialettale, sia la parola arcaica, quindi desueta, e sia il neologismo che lui stesso, in maniera estremamente creativa, inventa appositamente. Questo termine, quindi di pastiche, in realtà designa la mescolanza, sì, la confusione, sì, nel lessico di più registri, il medio-alto, l'alto, il popolare e via discorrendo. A cosa serve questo pastiche? Beh, serve sicuramente ancora una volta, a deformare la realtà. Perché l'intento del linguistico di Gadda è quello di mettere in evidenza fondamentalmente l'aspetto grottesco della realtà. Lo fa attraverso la costruzione delle vicende e il modo in cui organizza il racconto, ma lo fa e raggiunge gli effetti voluti proprio attraverso questa commistione dei linguaggi. Questo deformare la realtà ancora una volta appartiene a quella infelicità di fondo che sto cercando anche di farvi vedere, dell'impossibilità di considerare la realtà qualcosa di afferrabile, qualcosa di misurabile davvero. Altro modo completamente diverso invece di rappresentare attraverso la lingua il rapporto con la realtà è quello della ricerca dello stile cosiddetto semplice, cioè dell'espressione limpida e chiara che porta avanti fondamentalmente Calvino. Questa espressione limpida e chiara della leggerezza della parola, dello stile appunto semplice, non coincide assolutamente con una lingua povera e opaca, nel senso con poche capacità espressive. Tutt'altro, perché lo stile semplice ancora una volta è frutto invece di strategie retoriche, di competenze linguistiche estremamente profonde. È come costruire all'interno del racconto, frasi in cui ogni parola sia proprio quella giusta, quindi insostituibile, accostando suoni e concetti in modo tale che l'effetto sia in realtà la complessità del pensiero che quella lingua più semplice indica, allude, senza mai diventare essa stessa complessa. Bene, a conclusione di questa altra puntata dedicata quindi a una vera e propria, come dire, panoramica su delle tecniche, di stile, non resta che provare a riprendere in mano, i libri che amiamo di più e, verificare se, quanto, vi ho raccontato in qualche modo è più o meno facilmente individuabile, nelle prime pagine dei libri che avete a casa.